Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Si chiama Open Breath ed è un ventilatore polmonare, quindi esattamente il tipo di apparecchio ospedaliero utilizzato anche in questi giorni, insomma, come ben noto, nei pazienti con un deficit respiratorio. Ebbene, questo ventilatore polmonare è in corso di progettazione da parte di un team multidisciplinare, tutto italiano, composto quasi completamente da under 30, che sta sviluppando questo oggetto in questi giorni in una vera e propria corsa contro il tempo. Il respiratore, di cui tra pochi giorni sarà disponibile un primo prototipo, verrà rilasciato con licenza open source e quindi utilizzabile potenzialmente da chiunque, ed è stato progettato affinché possa essere prodotto su grande scala utilizzando componenti di facile reperibilità per l'industria anche in questo momento, con tutte le difficoltà di approvvigionamento che ben conosciamo. Ci facciamo raccontare di questo progetto da Gabriel D'Anselmo, che all'interno di questo gruppo si occupa di sviluppo hardware e software. Buonasera Gabriel, benvenuto. Buonasera Maurizio. Dunque, come prima cosa ti chiedo di descriverci brevemente questo oggetto. Ecco, ricordiamo che in linea di massima il principio di funzionamento di un ventilatore polmonare è lo stesso di una pompa, di una normale pompa, diciamo, per il canotto o per la bicicletta. Insomma, ci vuole una camera d'aria e delle valvole per far entrare e uscire l'aria. Voi avete automatizzato, aggiungendo anche tutta una serie di componenti di controllo e di sicurezza, ma avete fondamentalmente automatizzato questo processo. Esatto, praticamente abbiamo utilizzato come componente pneumatica il sistema un pallone ambu, un pallone per la rianimazione, di quelli che vediamo nei telefilm o in ospedale, dove l'operatore manualmente aziona questo pallone per spingere aria nei nostri polmoni. Abbiamo utilizzato questo sistema perché il pallone ambu è distribuito in tutto il mondo, è economico, è certificato ed ha un basso costo, come poi tutti i componenti che abbiamo utilizzato per progettare il nostro ventilatore. Infatti tutti i componenti sono a basso costo, si trovano ovunque, e i processi di realizzazione della parte meccanica sono processi molto semplici e ripetibili anche da aziende con basso contenuto tecnologico. Ecco, poi però c'è tutta anche una dotazione, diciamo, di controllo, di sensoristica. Ci sono le ridondanze, per esempio ho visto, a proposito ricordiamo openbreath.it per chi volesse qualche informazione in più, ho visto sul sito per esempio che questo è un sistema che ha due motori, per cui se uno dei motori che comprime questo pallone si rompe, c'è l'altro che va avanti a funzionare. Esatto, tutte le componenti sono ridondanti, sia quelle meccaniche che quelle elettroniche. C'è una supervisione dei motori tramite encoder, e quindi dovesse fallire qualsiasi componente di questo sistema, ce n'è uno equivalente che entra in funzione ed avvisa poi l'operatore. Ecco, e poi anche tutti, diciamo, i parametri di controllo tipici di un ventilatore polmonare da ospedale sono presenti in questo oggetto, che quindi, diciamo, non è una brutta copia, ma è una versione economica e facilmente riproducibile di ventilatore polmonare, ma è del tutto analogo a un apparecchio ospedaliero. Esattamente, l'obiettivo del nostro progetto è quello proprio di creare un vero e proprio respiratore che abbia tutte le modalità di funzionamento dei respiratori che troviamo nei reparti di terapia intensiva. Quindi abbiamo sia la respirazione automatica che quella assistita con le modalità in volume e in pressione. Chiarissimo, parli di respirazione automatica nei casi in cui il paziente è completamente incapace di respirare da solo, si parla di respirazione assistita quando invece si tratta, diciamo, di dargli una mano, soprattutto nella fase di rieducazione, quando il paziente reimpara a respirare dopo un po' di tempo. Esattamente corretto. Quindi, ripeto, un oggetto del tutto equiparabile a un ventilatore polmonare ospedaliero. A che punto siete col progetto? Abbiamo bisogno di ancora un paio di settimane per completare lo sviluppo del primo prototipo. Purtroppo abbiamo avuto problemi di approvvigionamento delle componenti. Le aziende che dovevano fornirci la meccanica purtroppo sono chiuse e abbiamo convertito tutto per la stampa 3D. E qui su Torino sia dei privati che delle aziende ci stanno stampando i pezzi e ce le stiamo scambiando con i Glover. Ecco, quindi state lavorando appunto in una situazione anche difficile, come molti peraltro in questo periodo. So che però arrivati a questo prototipo, che appunto sarà sul tavolo tra 1 o 2 settimane, ci sarà ancora un ostacolo da superare. Sì, l'obiettivo finale è quello della certificazione medica, per far sì che poi questo progetto possa essere usato realmente negli ospedali. Purtroppo è una procedura molto complessa, nonché costosa. È lunga. Molto lunga, motivo per il quale vorremmo un confronto con le istituzioni. Per esempio in Inghilterra, per ovviare a questo, si stanno prevedendo delle misure straordinarie e quindi si stanno mettendo delle nuove linee guida per la certificazione per velocizzare il tutto in situazioni emergenziali. Gabriel, ricordiamo un fatto importante, che il progetto è un progetto open source. Assolutamente sì, il progetto open source in tutte le sue parti, così che sia riproducibile da chiunque e in tutte le parti del mondo. E inoltre stiamo aprendo un progetto di crowdfunding per finanziare lo sviluppo del progetto. Troverete tutte le informazioni sul sito comunque. Va bene, allora grazie Gabriel D'Anselmo e avanti così. Grazie a te Maurizio. Lasciatemi sottolineare un aspetto prima di concludere. Come ci ha accennato anche il nostro ospite, negli UK ci si sta attrezzando per fornire una serie di regole, diciamo così, semplificate per produrre, data la situazione di emergenza, componenti e apparecchiature che normalmente hanno bisogno di un lungo processo di certificazione prima di poter essere utilizzate. Questo è tipico di tutti gli apparecchi biomedici. Questi requisiti semplificati si trovano pubblicati sul sito www.gov.uk. Abbiamo parlato di Open Breath, ma per esempio c'è un'altra azienda del comparto corse motociclistiche, CRP, molto forte nella stampa 3D, che sta stampando in questo momento le valvole Charlotte create da Isinnova, che servono a trasformare le maschere da sub Decathlon in respiratori per terapia subintensiva. Ecco, tutti questi oggetti per essere utilizzati legalmente avrebbero bisogno di una certificazione e quindi sarebbe importante, io credo, che anche in Italia si faccia un'operazione simile, stilando delle linee guida semplificate che possono essere adottate in questa situazione del tutto particolare. Cari ascoltatori, noi ci risentiamo lunedì, voi rimanete a casa.